Dorotea, quando era toccata profondamente, si curava poco di ciò che si pensava dei suoi sentimenti e anche se fosse riuscita a riflettere, avrebbe ritenuto meschino osservare il silenzio nell'udire delle parole ingiuriose su Will per timore di essere a sua volta fraintesa. Il suo volto era arrossito e le labbra le tremavano. Sir James, lanciandole un'occhiata, si pentì del proprio stratagemma, ma Mrs. Cadwallad era all'altezza di ogni occasione, allargò i palmi delle mani e disse: Che il cielo lo conceda, mia cara, voglio dire che tutte le brutte storie su chiunque possano essere false. Ma è un peccato che il giovane Lydgate abbia sposato una di queste ragazze di Middlemarch, considerando che figlio di qualcuno avrebbe potuto prendere una donna di buona famiglia e non troppo giovane, che avrebbe tollerato la sua professione. C'è Clara Harfager, per esempio, di cui la famiglia non sa cosa fare e ha una parte di dote, allora avremmo potuto averla tra di noi. Comunque, è inutile essere saggi per gli altri. Dov'è Celia? Vi prego, entriamo. Parto subito per Tipton, disse Dorotea in tono piuttosto altero. Arrivederci. Sir James non poté dire nulla mentre l'accompagnava alla carrozza. Era del tutto scontento del risultato di uno stratagemma che per avviarlo gli era costato una certa segreta umiliazione. Dorotea passò tra le siepi punteggiate di bacche e i campi di grano mietuto senza vedere o dire nulla attorno a sé. Le lacrime le spuntavano e scivolavano lungo le guance, ma lei non lo sapeva. Il mondo le sembrava, stava diventando brutto e odioso e non vi era posto per la sua fiducia. Non è vero, non è vero, era la voce che ascoltava dentro di sé, ma contemporaneamente un ricordo a cui si era sempre associato un vago senso di disagio si imponeva alla sua attenzione. Il ricordo di quel giorno in cui aveva trovato Will Ladislav in compagnia di Mrs. Lydgate e aveva udito la sua voce accompagnata dal pianoforte. Aveva detto che non avrebbe fatto mai nulla che io disapprovassi, se avessi potuto dirgli che disapprovavo quella cosa, si disse la povera Dorotea, avvertendo una strana alternanza fra l'ira verso Will e la sua appassionata difesa. Cercano tutti di denigrarlo davanti a me, ma non mi importerà di soffrire se non è colpevole. Ho sempre creduto che fosse buono. Questi furono i suoi ultimi pensieri prima di accorgersi che la carrozza stava passando sotto l'arco della cancellata della Grange. Allora, in fretta e furia, si premette il fazzoletto al volto e cominciò a pensare alle proprie commissioni. Il cocchiere le chiese il permesso di portare fuori i cavalli per mezz'ora perché c'era un ferro da riparare e Dorotea, con l'idea di aver tempo per andarsi a riposare, si tolse i guanti e il cappellino mentre era appoggiata contro una statua nel salone d'ingresso, intenta a parlare con la governante. Infine disse: Devo fermarmi qui un po', Mrs. Kell. Vado nella biblioteca e vi scrivo alcuni appunti dalla lettera di mio zio. Volete aprirmi le persiane, per favore? Le persiane sono aperte, signora, disse Mrs. Kell, seguendo Dorotea che aveva continuato a camminare mentre parlava. C'è dentro Mr. Ladislav che sta cercando qualcosa. Will era venuto a prendere una cartella dei suoi schizzi che aveva dimenticato al momento di imballare le sue cose e non voleva lasciarla lì. Il cuore di Dorotea parve scoppiare, come se avesse ricevuto un colpo, ma lei non si lasciò sfuggire alcuna emozione. In verità, la sensazione che Will era lì, per il momento, la soddisfaceva pienamente, come la vista di qualcosa di prezioso che si è perduto. Quando raggiunse la porta, disse a Mrs. Kell: Entrate prima voi e ditegli che io sono qui. Will aveva trovato la sua cartella e l'aveva posata sul tavolo in fondo alla stanza per sfogliare gli schizzi e trarre piacere dalla vista della memorabile opera d'arte che aveva un rapporto con la natura troppo misterioso per Dorotea. Stava ancora sorridendo su di essa e mettendo gli schizzi in ordine, col pensiero che avrebbe potuto trovare una lettera che lo aspettava a Middlemarch, quando Mrs. Kell, vicino al suo gomito, disse: Mrs. Casaubon sta entrando, signore. Will fu svelto a voltarsi e un attimo dopo Dorotea stava entrando. Mentre Mrs. Kell si stava chiudendo la porta alle spalle, essi si trovarono l'uno davanti all'altra. Si stavano guardando a vicenda e la consapevolezza fu travolta da qualcosa che impedì qualsiasi parola. Non era la confusione a renderli muti, perché entrambi avvertivano che la separazione era prossima e non c'era da vergognarsi a separarsi con tristezza. Lei si mosse macchinalmente verso la poltrona dello zio contro lo scrittoio e Will, dopo avergliela un po' allontanata da questo, si scostò di alcuni passi e rimase in piedi davanti a lei. Vi prego, sedetevi, disse Dorotea, intrecciando le mani sul grembo. Sono molto felice che siate qui. Will pensò che il suo volto avesse la stessa espressione di quando lei gli aveva dato per la prima volta la mano a Roma. Infatti la cuffia da vedova fissata al cappellino era stata tolta assieme a questo ed egli si rese conto che aveva pianto da poco. Ma in lei l'ira confusa e l'agitazione era svanita alla vista di lui. Era abituata, quando erano faccia a faccia, a provare sempre fiducia e una lieta disinvoltura che proviene da una comprensione reciproca. E come potevano le parole di altri soffocare d'improvviso quell'affetto? Che la musica che può impossessarsi della nostra persona e colmarci l'aria di gioia risuoni ancora una volta. Che importa se quando non c'era abbiamo udito altri biasimarla? Oggi ho inviato una lettera a Lowick Manor chiedendo il permesso di vedervi, disse Will sedendosi di fronte a lei. Sto per partire entro brevissimo tempo e non potevo andarmene senza riparlarvi. Pensavo che ci fossimo congedati quando siete venuto a Lowick molte settimane fa. Allora pensavate di essere sul punto di partire, disse Dorothea con la voce un po' tremula. Sì, ma allora ignoravo cose che adesso so, cose che hanno cambiato i miei progetti sul futuro. Quando vi ho vista l'altra volta, sognavo che sarei potuto tornare un giorno. Non penso che tornerò mai più. Adesso. Will a questo punto tacque. Volevate che ne conoscessi il motivo? Chiese Dorothea timidamente. Sì, disse Will con veemenza, scuotendo la testa all'indietro, irritato in volto e distogliendo lo sguardo da lei. Naturale che debba desiderarlo. Sono stato volgarmente insultato agli occhi vostri e di altri. Mi sono fatte delle subdole supposizioni contro la mia persona. Voglio che sappiate che in nessun caso mi sarei abbassato a. In nessun caso avrei dato alla gente la possibilità di dire che cercavo denaro. Col pretesto di cercare qualcos'altro. Non c'era bisogno di altra salvaguardia contro di me. La salvaguardia della ricchezza è sufficiente. Will si alzò dalla sedia all'ultima parola e andò. Non lo sapeva neppure lui, ma si trattava della finestra più vicina che era stata aperta adesso più o meno come nello stesso periodo un anno prima, quando lui e Dorothea si erano trovati accanto ad essa e avevano parlato. Tutto il cuore di lei ora riboccava di simpatia per l'indignazione di Will. Voleva solo convincerlo di non avergli fatto torto ed egli sembrava essersi allontanato come se anche lei avesse fatto parte del mondo ostile. Sarebbe assai scortese da parte vostra supporre che io vi abbia mai giudicato colpevole di alcuna bassezza, cominciò. Poi col suo fare ardente, col desiderio di implorarlo, si allontanò dalla poltrona e riprese il suo posto di un tempo di fronte a lui, davanti alla finestra, dicendo: Pensate che abbia mai diffidato di voi? Quando Will la vide lì, diede un sobbalzo e retrocedette dalla finestra senza rispondere allo sguardo di lei. Dorothea rimase ferita da questo movimento che si aggiungeva alla precedente ira del suo tono di voce. Era pronta a dire che la cosa era dura per lei come per lui e che era inerme. Ma quegli strani aspetti particolari del loro rapporto, che nessuno di loro poteva menzionare esplicitamente, le facevano sempre temere di dire troppo. In quel momento non credeva che in ogni caso Will avesse voluto sposarla e temeva di ricorrere a parole che potevano sottintendere un simile convincimento. Disse solo seriamente, riallacciandosi alla sua ultima parola: Sono certa che non ci sia mai stato bisogno di alcuna salvaguardia contro di voi. Will non rispose. Nel tempestoso fluttuare dei suoi sentimenti, quelle ultime parole di lei gli parvero crudelmente indifferenti e dopo lo scoppio di rabbia aggiunse un aspetto pallido e infelice. Andò al tavolo e legò la cartella, mentre Dorothea lo guardava da lontano. Scipavano questi ultimi momenti di compagnia in un misero silenzio. Cosa poteva dire Will, dato che ciò che dominava ostinatamente il suo pensiero era il suo amore appassionato per lei? A cui egli si vietava di dar voce. Cosa poteva dire lei, dato che non poteva offrire alcun aiuto, dato che era obbligata a tenersi il denaro che avrebbe dovuto essere di Will, dato che oggi egli non sembrava rispondere come era solito fare alla sua completa fiducia e simpatia? Ma infine Will lasciò la propria cartella e si avvicinò di nuovo alla finestra. Devo andare. Disse con quel particolare modo di guardare che talvolta si accompagna a un senso di amarezza, come se i suoi occhi si fossero staccati e bruciati a guardare troppo da vicino la luce. Che cosa farete di voi? Chiese Dorothea timidamente. Le vostre intenzioni sono rimaste le stesse di quando ci siamo congedati l'altra volta? Sì, disse Will con un tono che sembrava bandire l'argomento come poco interessante. Mi dedicherò al primo lavoro che si presenta. Penso che ci si abitui ad agire senza felicità o speranza. Che parole tristi, disse Dorotea con una pericolosa voglia di scoppiare in singhiozzi. Poi cercando di sorridere aggiunse. Una volta eravamo d'accordo nell'ammettere che ci somigliavamo per il nostro modo di parlare troppo enfatico. Ora non ho parlato in modo troppo enfatico, disse Will, appoggiando la schiena all'angolo del muro. Ci sono certe cose che possono capitare solo una volta nella vita di un uomo, ed egli deve sapere prima o poi che il meglio per lui è finito. Questa esperienza l'ho avuta mentre sono assai giovane, questo è tutto. Ciò che mi sta a cuore più di quanto mi potrà mai stare a cuore qualsiasi altra cosa mi è assolutamente proibito. Non intendo soltanto perché è al di là della mia portata, ma mi è proibito, anche se fosse alla mia portata, dal mio orgoglio e dal mio onore, da tutto ciò per cui ho rispetto di me stesso. Naturalmente continuerò a vivere come potrebbe fare un uomo che avesse visto il paradiso in estasi. Will tacque. Immaginando che fosse impossibile che Dorotea fraintendesse queste parole. In effetti pensò che si stava contraddicendo e che offendeva la stima che aveva di se stesso nel parlarle in termini così chiari. Eppure non si poteva con giustizia definire corteggiamento il dire a una donna che non l'avrebbe mai corteggiata. Bisognava ammettere che si trattava di un genere evanescente di corteggiamento. Ma la mente di Dorotea passava rapidamente in rivista il passato con una visione del tutto diversa da quella di Will. Il pensiero che lei stessa potesse essere ciò che a Will stava più a cuore palpitò, sì, in lei per un istante, ma poi venne il dubbio. Il ricordo del poco tempo in cui erano stati assieme impallidì e si ritrasse di fronte al ricordo che faceva pensare a quanto più pieno avrebbe potuto essere il rapporto fra Will e un'altra persona con cui era stato in costante compagnia. Tutto ciò che gli aveva detto poteva riferirsi a quell'altro rapporto e tutto quanto era intercorso fra lui e lei stessa era spiegato in maniera completa da ciò che lei aveva sempre considerato la loro semplice amicizia, il crudele ostruzionismo imposto ad essa dall'atto ingiurioso del marito. Dorotea rimase muta, con gli occhi abbassati in modo sognante, mentre alla mente si avvolgevano immagini che le lasciavano la disgustosa certezza che Will stava riferendo a Mrs. Lydgate. Ma perché disgustosa? Egli voleva che lei sapesse che anche in questo caso la sua condotta era stata irreprensibile. Will non fu sorpreso del suo silenzio, anche la sua mente era impresa a una tumultuosa attività mentre la osservava e aveva la sensazione piuttosto folle che dovesse accadere qualcosa a impedire la loro separazione. Qualche miracolo, chiaramente nulla di quanto si dicevano deliberatamente. Eppure, dopo tutto, lei provava un po' di amore per lui. Non poteva fingere con se stesso che avrebbe preferito crederla esente da quel dolore. Non poteva negare che un segreto desiderio di essere sicuro che lei lo amava fosse alla radice di tutte le proprie parole. Nessuno dei due si rese conto di quanto tempo erano restati così. Dorotea stava alzando gli occhi e stava per aprir bocca quando la porta si aprì e sola che venne a dirle: I cavalli sono pronti, signora, per qualsiasi momento vogliate partire. Subito, disse Dorotea. Poi, voltasi verso Will, disse: Devo scrivere alcuni appunti per la governante. Io devo andare, fece Will quando la porta si fu richiusa, avanzando verso di lei. Dopodomani partirò da Middlemarch. Vi siete comportato nel modo corretto sotto ogni aspetto, disse Dorotea in tono sommesso, sentendo un'oppressione al cuore che le rendeva difficile parlare. Gli tese la mano e Will la prese per un istante, muto, perché le parole di lei gli erano parse crudelmente fredde ed estranee. I loro occhi si incontrarono, ma in quelli di Will c'era insoddisfazione, in quelli di Dorotea solo tristezza. Egli si girò e prese la cartella sotto braccio. Non vi ho mai fatto torto. Vi prego di ricordarvi di me, disse Dorotea soffocando un singhiozzo. Perché dovreste dire questo? Fece Will con irritazione, come se non corresse il pericolo di dimenticare qualsiasi altra cosa. In quel momento si abbandonò davvero a un moto di rabbia verso di lei e e questo lo costrinse ad andarsene senza più alcuna esitazione. Per Dorotea fu tutto un lampo, le sue ultime parole, il suo inchino distante mentre raggiungeva la porta, il senso che egli non c'era più. Sprofondò nella poltrona e per alcuni momenti rimase lì seduta come una statua, mentre immagini e sentimenti assalivano in frotta. Dapprima venne la gioia, a dispetto del minaccioso strascico dietro di essa, la gioia per l'impressione che era veramente lei che Will amava e a cui rinunciava, che in realtà non vi era alcun altro amore meno lecito, più biasimevole, da cui l'onore lo allontanava in fretta e furia. Essi erano lo stesso separati, ma Dorotea trasse un profondo respiro e sentì tornarle le forze. Lei poteva pensare a lui senza freni. In quel momento la separazione era facile da sopportare. La prima sensazione di amare e di essere amata bandiva la tristezza. Era come se qualche dura, gelida compressione si fosse sciolta e la sua consapevolezza avesse spazio in cui espandersi. Il suo passato le era tornato con un'interpretazione più ampia. La gioia non era minore, forse proprio allora era più completa per l'irrevocabile separazione, perché non c'era rimprovero né stupido disprezzo da immaginare in alcun occhio o da alcune labbra. Egli si era comportato in modo da sfidare il rimprovero e da rendere rispettoso lo stupore. Chiunque la osservasse avrebbe potuto vedere che dentro di lei c'era un pensiero che le infondeva forza, proprio come quando la capacità inventiva sta lavorando con felice agio. Qualche modesto appello all'attenzione viene completamente esaudito, come se fosse solo una fessura aperta alla luce del sole. Ora fu facile per Dorotea scrivere gli appunti. Rivolse le ultime parole alla governante in tono gioioso e quando si sedette in carrozza aveva gli occhi luminosi e le guance floride sotto il cappellino tetro. Tirò indietro i pesanti veli di crespo nero e guardò davanti a sé, chiedendosi che strada avesse preso Will. Era tipico della sua natura essere orgogliosa del fatto che egli era irreprensibile e tutti i suoi pensieri erano percorsi da questo ritornello. Avevo ragione a difenderlo. Il cocchiere soleva tenere i suoi grigi a buon passo, poiché Mr. Casaubon non gradiva e non sopportava nulla lontano dal proprio scrittoio e voleva giungere in fretta alla fine di ogni viaggio. E Dorotea ora fu trascinata via rapidamente. Andare in carrozza era gradevole, poiché la pioggia della notte aveva fatto posare la polvere e il cielo azzurro appariva lontano, fuori dalla regione delle grandi nubi che passavano in massa. La terra appariva come un luogo felice sotto i vasti cieli e Dorotea desiderava raggiungere Will e vederlo ancora una volta. Dopo una svolta della strada, eccolo con la cartella sotto braccio, ma un attimo dopo lei lo stava sorpassando mentre egli si toglieva il cappello e lei avvertì un dolore nell'essere seduta lì in una sorta di esaltazione, lasciandoselo alle spalle. Non poteva voltarsi a guardarlo. Era come se una quantità di oggetti indifferenti li avesse separati e li avesse obbligati a percorrere sentieri diversi, portandoli sempre più lontani l'uno dall'altro e rendendo inutile che si voltasse a guardare. Non poteva fare alcun segno che sembrasse dire: è necessario che ci separiamo? Più di quanto non poteva fermare la carrozza per attenderlo. Anzi, che quantità di motivi si affollò alla sua mente per proibirle qualsiasi moto del suo pensiero verso un futuro che potesse rovesciare la decisione di quel giorno. Se solo l'avessi saputo prima, se lui sapesse, allora potremmo essere completamente felici pensando l'una all'altra, anche se siamo per sempre separati, e se avessi potuto soltanto dargli il denaro e rendergli la vita più facile. Erano i desideri che le tornavano con maggiore insistenza. Eppure il mondo la opprimeva così pesantemente, a dispetto della sua energia e della sua indipendenza, che insieme a questa idea di Will, bisognoso di un simile aiuto e svantaggiato nella vita, si presentava sempre la visione di quella sconvenienza di qualsiasi rapporto più stretto fra di loro, come era opinione di ciascun suo parente. Capiva appieno la ineludibilità dei motivi che guidavano la condotta di Will. Come poteva egli sognarsi che lei sfidasse la barriera che il marito aveva posto fra di loro? Come poteva lei dirsi mai che l'avrebbe sfidata? La certezza di Will, mentre la carrozza si rimpiccioliva in lontananza, aveva in sé assai più amarezza. Cose di assai poco conto erano sufficienti a irritare il suo umore sensibile e la vista di Dorotea che gli passava davanti in carrozza, mentre egli si sentiva avanzare a fatica come un povero diavolo che cerca una posizione in un mondo che nel suo umore attuale gli offriva ben poco che gli bramasse. fece sembrare la sua condotta una semplice questione di necessità e gli tolse il sostegno della risolutezza. Dopotutto, non aveva alcuna certezza che lo amasse. Un uomo poteva sostenere di essere semplicemente felice in un caso simile, perché portava tutta la sofferenza sulle proprie spalle. Quella sera Will la trascorse con i Lydgate. La sera successiva era partito.